Candela. C'è nessuno, 10. Ciao Carlo, buonasera. Poi Natalì, e allora come andiamo? Per il momento male. Ancora dolori c'hai? Io. Ma i dolori non passano mai, mamma mia. Ascolta, dalla dottoressa ci sei andato? È andata mia moglie poco fa a portargli l'effetto perché dice che non riusciva a leggerlo e allora gli ha portato il cartaceo. E quindi adesso devi aspettare che ritorni per dirti insomma cosa si può fare, no? Sì, devo fare un'altra visita dall'urologo, una cistoscopia devo fare. E insomma, non si finisce mai, insomma, sempre aggiusti una cosa, se ne rompe un'altra, di quella serie lì sembra, mamma mia. Vabbè, Natalì, ti auguro di trovare la forza e il coraggio di andare avanti, cavolo, perché insomma quando ti arrivano gli acciacchi purtroppo è così, l'importante insomma è risolverle poi le cose, dai. Speriamo si possa risolvere, come dici tu. Vediamo cosa dice la dottoressa stasera. Se non altro passare il dolore senza fare ricorso a, che ne so, antidolorifici che poi ti devastano lo stomaco, poi a lungo andare, capito? E niente, dai, speriamo bene, incrociamo le dita e spero per te che trovino qualche soluzione per farti stare meglio, almeno, dai, a passare le giornate senza dolori. Mamma mia, Alfredo. Non sto neanche dormendo la notte, perché io se c'ho qualcosina, la minima cosa non mi fa dormire. E poi magari ti viene il sonno di giorno quando non dormi di notte o dormi male, poi magari ti scendono gli abbiocchi durante la giornata ed è una rottura di scatole poi. E infatti me ne sono alzato adesso, ho acceso e ho sentito a te. E io anche prima ho sentito qualcuno, ho detto chi è e non mi hanno risposto, adesso ho detto vediamo un po' se c'è qualcuno che mi risponde. E a volte c'è qualcuno, a volte ieri sera, insomma, un po' di chiacchiera c'era, ho visto. È entrato, c'era Marco, c'eri tu, c'era Gianni, insomma ho sentito qualcuno, Antonello, niente, e quindi qualche volta diciamo si ravviva la 27 e altri giorni sembra morta. E infatti, no, ma io non stavo entrando perché non stavo bene. Stavo troppo male, non avevo voglia di entrare, non entravo per quello. Sì, io lo stesso, non è sempre che posso, diciamo, stare in radio, qualche volta attacco anche in macchina, tipo ieri che sono andato da Antonello, che gli avevo promesso che gli portavo delle cose, e quindi come l'ho sentito poi sono andato e ho attaccato in macchina, capito? Tanto c'ho l'impianto già pronto, ho la staffa messa nel cassettino esterno che neanche si vede, fissata con due vitini, e quindi quando prendo la radio la metto lì, la collego all'accendisigari, ci collego l'antenna, capito? E poi quando finisco praticamente tolgo l'antenna e la metto dentro il portabagagli con la base magnetica, capito? E, insomma, qualche volta già lo sto usando. Sì, anch'io ce l'ho l'impianto in macchina, c'ho tutto pronto, tolgo l'antenna dal coso, dal portabagagli con la base magnetica e via. Non ci metto niente. E infatti se la voglio con un pochettino più di prestazione devo attaccare qualcosa in macchina, però si rovina la batteria poi alla lunga quella roba là, capito? E quindi allora la uso insomma in città, quando sei vicino a Sassari già va bene anche con i watt normali della radio. Sì, l'importante è che quella roba là la usi col motore acceso, non la devi mai usare col motore spento, capito? Perché un amico mio ha rovinato rovinato la batteria del camion dell'articolato, ha rovinato perché aveva il vizio di parlare con il motore spento. Infatti, quindi devi fare un po' un compromesso, anche perché tipo la batteria della macchina te la puoi cavare con 80-100 euro, quella del camion costa un bel dinami, Natale già lo sai, e quindi insomma rovinare una batteria per avere qualche watt in più non ne vale la pena, invece usandola con i watt normali, magari anche se spegni non succede niente, capito? Perché non è che ha questo grande consumo con 5 watt. Infatti il principale gliel'ha detto, quello sei tu col baracchino che hai crepato la batteria, la prossima che rompi te la paghi tu, l'ha detto, perché io non te ne pago più. Evidentemente lo sapeva che aveva tutto l'impianto così, capito? E niente, quindi anche lui quando attacca lo fa col motore acceso o altrimenti deve staccare, capito? Bisogna fare così. Infatti quella roba lì non si usa col motore spento, sennò ti asciutta la batteria e ti la grimba, c'è poco da fare perché c'è molto assorbimento quando attacchi quella roba lì. Quindi è preferibile sempre col motore acceso. Sì, infatti già faccio così io, non è che se attacco qualcosa la uso col motore camminando, capito? Giusto per provare un po' le prestazioni dell'antenna, eccetera. Se la dovessi attaccare qualcosa farò così, ma non a motore spento, se no abbiamo finito con la batteria. Quello è poco ma sicuro. Io non ne ho mai avuto lineare, non mi sono mai piaciuti, perché la prima volta che l'ho usato ho bruciato tutto, mi è uscito il fumo dal lineare, non ne ho più usato in vita mia. Sempre normale la radio. Infatti io lo stesso anche qua a casa uso solo i watt della radio, e quando avevo l'altra già attaccavo ogni tanto qualcosa, invece con questa, a parte che puoi regolarli tu, adesso sto uscendo con 5 watt, in AM arrivo sino a 12, in FM e in SSB questa arriva a 30, capito? 30-32, e quindi già mi bastano, capito? Ho visto che quando c'è un po' di propagazione o anche quando non c'è riesco comunque ad arrivare abbastanza lontano, per cui non c'è necessità di attaccare nient'altro, capito? Sì, infatti. Solo se vai lontano, un lineare di quelli da aceto va bene, quando stai camminando lo attacchi e via, ma mai usarlo a motore spento perché ti fa quello scherzo lì che ha fatto a quell'amico. Il principale ha detto, sei tu col baracchino che l'hai rovinata la batteria del camion, e se tu la bruci torna te la paghi tu. Non so quanto costava una batteria di quel trattore. Quelle sono batterie grosse, capito? E costano un sacco di soldi, lì parliamo anche di 500 euro a batteria, secondo che camion è, costano un bel, capito? Lo so perché le ho viste esposte e ho visto quanto costano. Ma poi perché spegnerlo il camion? Se devi stare poco, certi non lo spengono neanche, proprio per non usare il motorino d'avviamento a tornare a avviare il trattore, capito? E la lasciamo accesa. Un attimo solo, Natali, che c'è una chiamata. Natali, ci sei ancora? Scusa che mi è arrivata una chiamata. Sì, certo che ci sono. È un mio amico che mi ha detto che deve, insomma, venire a Sassari, da Alghero a Sassari, perché deve prendere una medicina, tanto per cambiare, nella farmacia da Gutierrez in via Roma, no? E allora mi ha detto, se ci sei, allora appena prendo la cosa fatti trovare in piazza dei Segni, così ci prendiamo una cosa insieme, capito? Sì, capa. Santa Benemera, metti, puoi mettere l'antenna in macchina e moduli da lì. E infatti, ieri sera ero lì a Piazza Lessegni quando stavo parlando, che c'eri anche tu, c'era Gianni e Marco, perché sono andato a casa di Antonello che abita un po' più su lì a Serra Seca, dai. Gli ho dato la roba che gli dovevo dare e poi scendendo mi sono fermato lì, c'era un traffico perché era appena finita la partita della Torres, però ho trovato spazio, mi sono messo lì e stavo chiacchierando, sono rimasto una mezz'oretta, poi sono rientrato a casa e ho staccato tutto. Sì, infatti, adesso aspettiamo che la signora rientri, così sappiamo di che morte dobbiamo morire. Spero per te che insomma si possa fare qualcosa almeno a toglierti il dolore, capito? Perché insomma non è una bella cosa stare con i dolori e soprattutto non ti fanno dormire, e se non dormi bene, non riposi bene, poi ti altera insomma anche tanti altri valori, capito? Non è che puoi stare così a perdere, a passare le notti insonni eccetera. Spero che si possa fare qualcosa, Natali, dai, incrociamo le dita. Sì, davvero, incrociamo le dita, perché dovrò fare questa cistoscopia, c'ho roba alla vescica e c'ho dolori al basso ventre, proprio dove mi hanno operato all'ernia inguinale, lì mi viene questi dolori, specialmente quando vado in bagno, mamma mia, qua sono a pezzi. Esatto, lì bisogna vedere bene, spero che la dottoressa riesca a vedere insomma e che disponga insomma una soluzione breve e che sia efficace, dai, perché magari c'è qualcosa di ostruito, qualche ciste che preme, qualche cosa così e che magari provoca l'infiammazione perché non fa passare bene le cose e il dolore sicuramente ce l'hai per quello. Un nodulo c'ho un nodulo, me l'ha detto quello che mi ha fatto l'ecografia, capito? E adesso bisogna fare questa cistoscopia per vedere che malanno di roba è. Ho capito. E speriamo che si possa asportare senza, insomma, senza problemi. Magari una cista normale, capito? Adesso vediamo, dai. Poi ci farai sapere. E vediamo cosa mi dice quando faccio quella visita lì. E quella quale specialista te la fa la cistoscopia? Sempre chi ti ha fatto l'ecografia? Oh, un urologo ci vuole per quello, che entrano con uno strumento e vedono cosa c'è. E allora o te lo fanno all'ospedale quello, perché penso che quello è una sorta di un po' invasiva come visita, diciamo, e non credo che ne so, che ci sia un urologo che la possa fare tipo ambulatoriamente questa cosa, immagino, o ti fanno in ospedale tutto, capito? E magari te lo fanno anche con urgenza, se la dottoressa ti mette urgente te la fanno subito. Dice che non si possono fare ricette urgenti la dottoressa, capito? Che non esistono più. Vai due a pillara. Già si possono fare, perché 2 anni fa mia moglie gli hanno trovato sulla fronte una ciste che sembrava un brufolo che non guariva più, capito? E gli hanno detto che era un tumore della pelle. La dottoressa gli ha fatto l'impegnativa normale e il medico specialista gli ha detto no, ritorni dalla dottoressa e gli dica che lei deve fare subito l'intervento, perché queste cose prima si tolgono e meglio è. A vedere se gliel'ha messa. Gli ha messo l'urgenza, è andata alle cliniche dove c'è la chirurgia estetica, si è prenotata, l'hanno presa dopo 4 giorni, ha dovuto fare l'elettrocardiogramma e un'altra visita, mi sa le analisi del sangue, e poi l'hanno presa subito, perché quando se c'è urgenza te lo devono togliere subito, capito? E infatti, adesso vediamo come si piazza questa dottoressa che non capisce nulla. Gli ho mandato il reperto via WhatsApp e dice che non riusciva a leggerlo. Adesso l'ho mandata col cartaceo, perché io l'ho dovuto scaricare da internet, non mi hanno dato né dischette né un tubo. però io già ho preso tutti i file, li ho messi in una chiavetta e glieli do all'urologo, così se gli servono le immagini ci sono anche le immagini. Hai fatto bene, così magari se li può guardare anche insomma sul computer, magari li visualizza e li legge soprattutto meglio, capito? Fatto bene a metterli nella chiavetta. E vabbè, dai Natali, speriamo bene. Speriamo bene, sì. Oh signore, vabbè. Sembro bestemmiato, cazzo, di tutti i colori me ne stanno succedendo. Quando ho avuto la pancreatite mi hanno trovato i calcoli alla cistifella e mi sono fatto operare anche lì. Dopo c'avevo l'ernia e mi sono operato. Voglio vedere cosa cavolo succedeva. Va. E insomma, della serie tutti i guai non finiscono mai. E purtroppo se ci vuole un altro piccolo intervento, spero che sia, ed è risolutivo, meglio farlo, Natali, devi comunque provvedere subito a farlo, ma questo te lo dirà la tua dottoressa, se è da fare o meno, perché non è che puoi stare così, no? a non poter dormire, cioè una persona non può stare così. Poi sicuramente la dottoressa saprà che insomma tu hai, quello che hai avuto, eccetera, e quindi immagino che te la metta una sorta di urgenza, capito, nella ricetta che ti fa. Dice che non si può mettere più urgente, capito? Ma vabbè, tanto quello che si dovrà fare me lo dice l'urologo, è lui che mi fa la cistoscopia e vede cosa c'è, cosa si può fare e cosa non si può fare. Quindi l'ultima parola aspetta a lui. E quindi la cistifella, tu quando hai avuto problemi te l'avevano asportata, Natali? Sì. Mi hanno tirato 4-5 pugnalate e me l'hanno tolta. Perché praticamente la cistifella è una sacca che praticamente contiene la bile che serve per la pulizia, per il fegato, capito? E quando si formano i calcoli, questa cistifella, cosa succede? Che i calcoli stessi la possono bucare e quindi devi intervenire subito, toglierla e poi devi dilatare il dotto colero, così chiamano, lo dilatano e praticamente quello diventa un'altra sacca, capito? Mettono un dilatatore e poi devi fare sempre trattamento e prendere farmaci tipo il Diursil, con acido urso desossicolico. Io ci ho lavorato con i gastroenterologi e avevo quei farmaci lì, e per quello che lo so, ho lavorato 7 anni con la BC farmaceutici, lavoravo con i medici, facevo l'informatore scientifico, poi non l'ho fatto più, capito? Ho cambiato mestiere, ho fatto anche quello, quindi qualche riga già la conosco di quelle patologie. Io ho capito. No, io non ne sto prendendo farmaci né niente, me l'hanno tolta e buco. Magari te li hanno dati solo all'inizio, poi te li avranno tolti, capito, perché quell'intervento lì è risolutivo, nel senso che ti tolgono la cistifella, ti dilatano il dotto coledoco e poi praticamente quello funge da cistifella, capito, e non dovresti avere più problemi di accumulo di calcoli biliari lì. E la prevenzione è farla ogni tanto la terapia per rendere la bile molto fluida, capito, che non accumuli sabbie biliari o formazione di calcoli, capito? E di quelle cose sai quante ne ho visto anche alla immagini sul monitor grandi di interventi, ci facevano vedere tutte quelle cose lì che riguardavano la cistifella, capito? Io ho capito. Era messa male, quindi voleva operata. C'avevo calcoli di brutto. E allora mi hanno messo a scegliere cosa facciamo prima, l'ernia o la colicistica. Faccia la colicistica. A me mia zia mi aveva avvertito, va subito visa, a che se no se ti viene un altro attacco di pancreatite vi rimani. Sono vivo per miracolo io dalla pancreatite, non è per quello che mi è venuto. E insomma, dai, problemi a non finire. Sì, poi da quello mi è venuto il diabete. Hai capito? Sono anche diabetico, figurati. Già, quello già me l'avevi già detto, sì, lo ricordavo. Purtroppo da un male passi all'altro, capito? Quindi tu già ne hai e ne fai di sacrifici già per il diabete, capito? Quindi bastano, non ci vogliono le altre cose, dai. Sì, infatti. Cazzo, non sto più scendo, non sto facendo più nulla e devo camminare e non posso fare nulla. Con questi dolori qua no. Speriamo bene. Ok, Natali, io devo uscire, come ti dicevo prima, un attimo, perché mi ha mandato un messaggio che lui è già in farmacia, quindi adesso vado qua vicino a Piazza Le Segni, una mezz'oretta, poi se ci sei dopo già faccio chiamata e ci sentiamo più tardi, dai, grazie delle due chiacchiere, a più tardi Natali, e speriamo bene, dai. Ok, ciao Carlo, ci sentiamo alle prossime. Ciao. Thank you.